Aiu cantate chi ne vo ma usce, ma l'orici quanta i cavofa. Aiu cantate un pace su cahune, chi ne vo ma la mia ma si cahune. Aiu cantate un pace su ruvetu. Chi ne va male a mia padà rupetto. E non parlare tu niente di gutta, gambide io c'alore per i chatta. Quando cammini ti coti uli tutta, pari cacerni cani gialli gatti.